Letture di Radio 24. Dal lupo all'orso bruno, dall'aquila imperiale allo stambecco delle Alpi. Sono numerosi gli animali selvatici che sono ritornati a popolare le montagne europee grazie alla politica ambientale dell'Unione. La natura selvaggia ritorna in Europa, ma non fa tutto da sola. Gli uomini le danno una mano. In particolare gli ambientalisti, che in Europa lottano da decenni per salvare le specie a rischio. Sorvegliano le uova delle covate, contano gli esemplari esistenti e reintroducono in natura quelli giovani. Senza questo impegno, il ritorno degli animali selvatici non avrebbe avuto luogo. Nel vecchio continente tutto è iniziato con la direttiva UE per la protezione degli uccelli. Quando entrò in vigore nel 1979, in Italia fu recepita solo nel 1992, fu vietata la caccia di tutte le specie di volatili, con poche eccezioni. Per 160 specie di uccelli in particolare pericolo, i paesi europei dovettero indicare aree protette. Così si creò la base affinché crescessero i patrimoni di aquile di mare, falchi di palude e di cicogne nere, come dimostrano gli studi di BirdLife International. Grazie alle leggi europee, negli anni 70 e 80 l'aria diventò più pulita, fiumi e laghi si ripresero e diminuì l'impegno di sostanze chimiche nell'agricoltura e nell'industria. Di conseguenza, il patrimonio ittico aumentò e i rapaci poterono nuovamente sfamare più prole. Ma il più importante balzo legislativo è avvenuto nel 1992. La direttiva FFH, Flora, Fauna e Habitat, che vale in tutta l'Unione Europea e in Italia è stata recepita nel 97, esorta gli Stati a indicare aree protette per habitat e specie in pericolo. Le nazioni possono indicare aree protette esistenti, se soddisfano i criteri richiesti, ma per lo più devono indicare ulteriori aree all'interno delle quali le specie a rischio possano trovare nuovi ambienti di rifugio. La direttiva FFH mette sotto protezione anche 234 specie di piante e animali a rischio, tra le quali tutti i grandi animali da preda come il bisonte e lo stambecco delle Alpi. A causa della FFH, molti paesi hanno dovuto emanare divieti di caccia. Per i nuovi stati UE, con l'accesso è entrata in vigore quasi immediatamente una legge di tutela della natura ben più severa. Quasi tutti gli stati hanno istituito le loro aree di protezione degli uccelli e FFH, 26.000 ambienti che insieme costituiscono la rete Natura 2000 e comprendono il 18% della superficie europea. È il più grande sistema integrato di biotopi a livello mondiale e rappresenta un risultato esemplare nella politica europea. Nel 2011 i paesi dell'Unione hanno approvato una strategia per la biodiversità, nella quale garantiscono di applicare interamente le direttive sulla tutela della natura entro il 2020. È stato calcolato che servono circa 6 miliardi di euro all'anno per elaborare e attuare i piani. Invece i mezzi a disposizione sono vergognosi, afferma Klaus Mayer della BirdLife International. Il Fondo Europeo per l'Ambiente LifePlus stanzia circa 330 milioni di euro l'anno per i progetti per la tutela della natura e delle specie. Pur con questi modesti sussidi, in Francia e in Italia gli ambientalisti hanno informato la popolazione e sono così riusciti a ottenere un maggiore consenso anche da parte degli agricoltori. E in Slovacchia sono state isolate le linee ad alta tensione per proteggere l'aquila imperiale orientale da scosse elettriche mortali. Dei fondi UE hanno beneficiato le specie più diverse, dai salmoni in Scozia alle tartarughe marine comuni nei mari della Grecia, e anche habitat come dune e paludi in Finlandia, steppe in Ungheria e il delta del Danubio in Romania. I fondi servono anche per studi e seminari con i quali l'Unione Europea si propone di appianare i conflitti che nascono dal ritorno dei grandi predatori. Gli animali che riappaiono sono subito esposti nuovamente a pericoli. E nonostante progetti efficaci, l'Unione ha fallito nel suo obiettivo di fermare, entro il 2010, la perdita di biodiversità. Ora vuole farcela per il 2020. Iniziative come Wild Wonders of Europe mostrano che nuove zone selvatiche potrebbero contribuire a collegare meglio le aree protette europee esistenti. Attualmente molte aree protette dell'Unione Europea sono isolate. È un problema proprio per le specie migratorie, spiega Klaus Mayer. La Commissione Europea ha esortato gli Stati a impegnarsi di più per il collegamento. Per farlo, devono costruire ponti verdi, sui quali lupi e linci possono attraversare le strade. Le cose da fare non mancano. La Commissione ha un buon approccio, ma tutto dipende da quanto saranno disposti ad accettare gli Stati europei. In fin dei conti, da quanta natura vorranno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Thorsten Schäfer, Nuove aree selvatiche? I meriti delle leggi europee, dal numero 73 gennaio 2012 del mensile Geo. Nel febbraio di 25 anni fa se ne andava Claudio Villa, uno dei più grandi protagonisti della musica italiana del secolo scorso. Una voce indimenticabile, unita ad una personalità forte e controversa, che Giancarlo Governi e Leonardo Settimelli ricordano nel libro Claudio Villa, il romanzo di una voce. Una biografia nata dalla trascrizione di alcuni nastri messi a disposizione dalla moglie Patrizia, nei quali il cantante ripercorre le tappe principali della sua vita. Gli anni difficili della sua infanzia, i primi passi nel mondo della musica, la malattia che lo ha tenuto lontano dalle scene proprio agli inizi della carriera. La scoperta avviene una sera, mentre sta cantando in un lussuoso ristorante della capitale. Lo spettacolo finisce prima del solito, perché Claudio, mentre stava cantando una canzone che gli richiedeva un forte sforzo vocale, ha sentito in bocca uno strano sapore. Si è precipitato in bagno e ha sputato sangue. I miei compagni dell'orchestra avevano capito che stavo male, che mi era successo qualcosa e mi vennero dietro. Quando capii che cosa mi stava succedendo, mi misi a piangere. La tubercolosi è una delle malattie più diffuse nel dopoguerra. Colpisce soprattutto i giovani ed è quasi sempre conseguenza della denutrizione e delle condizioni di vita malsane. È una malattia contagiosa a cui non sono stati trovati ancora rimedi efficaci, per cui il malato viene isolato in appositi sanatori e i casi vengono denunciati all'autorità sanitaria. Ammalarsi di tubercolosi vuol dire anche perdita del lavoro e allontanamento dalla vita sociale. Per un cantante, poi, la malattia polmonare significa la fine della carriera. Per questo, nessuno deve sapere. Claudio deve rimanere a casa protetto dall'omertà dei familiari e dei vicini, perché appena superato il periodo critico deve tornare a lavorare. È lui stesso che lo vuole, perché la sua voglia di arrivare è forte e nessuno, neppure una malattia terribile, può fermarlo. Incomincia un lungo periodo di cure e di sacrifici. Claudio sceglie la strada del pneumotorace, con cui, attraverso un ago conficcato nell'addome, viene pompata aria nel polmone malato, così chi viene messo a riposo per un po' di tempo. Il suo medico curante è un appassionato di musica, suona il piano e comincia subito ad apprezzare Claudio non soltanto per il coraggio, ma anche per le sue qualità canore, che ora non può mostrare completamente perché deve cantare con un polmone solo e in falsetto e mettere da parte, quasi nascondendola dentro il polmone che vive dell'aria iniettata dal pneumotorace, la sua bella e limpida voce tenorile. Mentre l'umanità tornava a vivere, la mia gioventù finiva così, come un ramo rotto. I dispiaceri, le angosce, i pianti, i dolori non mi furono risparmiati ed erano quasi superiori al male che mi stava colpendo. E per tutto ciò non c'erano medicine adatte. 6 lunghi anni è durata la cura, mai in sanatorio e chi poteva permetterselo? Sempre in sala d'incisione, sempre in viaggio, nei locali fumosi. Tutto il contrario di quello che un malato avrebbe dovuto fare. È stata fortuna o incoscienza? È stata una grande volontà. Mi sono detto molte volte che un ragazzo di 20 anni, dopo aver superato una guerra e un'infanzia così dura, non poteva farsi piegare e sconfiggere dalla malattia. La malattia era già avanti in me, ma io l'ho saputa bloccare e vincere. Con che cosa? Non certo con il riposo, che sarebbe stato l'ideale, ma mangiando, nutrendomi, dando al fisico quello che gli era mancato nella fanciullezza e nell'adolescenza. Il mio fisico ora era una camera d'aria, ero pieno d'aria. L'aria gliela dà il dottor Percy, che lo aveva visitato tempo prima in una stanzuccia fredda e dimessa. Trovai un giovane febbricitante, tossicoloso, e capì subito che era la tisi. Il dottor Percy sembra aver scommesso su Claudio. Lo segue nelle tournée, lo aspetta in camerino e quando rientra boccheggiando gli somministra un'altra dose di aria. C'è una trasmissione dei primi anni della televisione che si chiama Palcoscenico girevole. Vi si vede un Claudio Villa rotondo, quasi gonfio, che canta la celeberrima Granada. Alla fine il presentatore, Carlo Campanini, gli si avvicina e gli chiede: «Ma dove lo prende tutto questo fiato, lei?» Villa sospira e, ridendo di un riso molto amaro, si mette l'indice di una mano sull'addome e risponde: «Ho la spina qui». Nessuno poteva sospettare che quella che poteva sembrare una battuta ironica fosse una verità tremenda. Una verità che nessuno deve conoscere, per non essere allontanato e discriminato come portatore di malattia infettiva ed anche per non suscitare la pietà della gente. Claudio vuole sfondare con i suoi mezzi, con la sua voce e con le sue capacità, ma anche con il suo aspetto gradevole di ragazzo sano e robusto. Il successo è lì a portata di mano e non può lasciarselo sfuggire, perché significa l'uscita dall'anonimato, ma anche l'agognato benessere per sé e per la propria famiglia. Significa avere da mangiare tutti i giorni, significa uscire dalle camere in subaffitto, significa avvicinare le donne più belle. In questa lotta impari lo sostengono la forza di volontà e un grande senso di rivalsa contro la sorte, contro la società che lo ha emarginato. Ha scoperto di essere stato dotato dalla natura di una bellissima voce e di questa dote vuole fare lo strumento della sua lotta contro tutti e anche contro se stesso. Ma qualche volta la forza di volontà non basta. Dindo, la canzone del mattino vicino e lontano si fa sentire già. Finalmente la guarigione, sofferta e voluta con tutte le forze, arriva, ma la malattia lo segnerà per tutta la vita nel carattere. Ora non c'è più il piccolo Claudio che finge di dormire quando il padre ritorna a casa ubriaco, o il ragazzo che corre di notte con la bicicletta per arrivare per primo alla fonte dove deve riempire i fiaschi di acqua minerale. Il loro posto l'ha preso un uomo spavaldo e guascone, che ha raggiunto il successo con tutte le sue forze, vincendo mille ostacoli, ed è sicuro di non mollarlo più. È stata una grande vittoria della scienza e anche della competenza del dottor Percy. Ho rischiato forte, ma ho vinto. Molto è dipeso dalla grande forza di volontà che avevo. Non mi sono fermato. Se lo avessi fatto, mi sarei ammalato d'altro. Sono guarito agendo, cantando, muovendomi, facendo esattamente tutto il contrario di quello che un ammalato di polmoni dovrebbe fare. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Giancarlo Governi e Leonardo Settimelli, Claudio Villa, Il romanzo di una voce, Armando Curcio editore, 160 pagine, 14,90 euro.